E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi parla di un progetto che in qualche modo punta a un fumetto sociale, ovvero sia delle storie vere raccontate dai protagonisti di un quartiere periferico di Bologna, la Pescarola, che si trasformano in un workshop in fumetto, anzi in graphic novel. Con noi Antonella Selva, che è tra i propugnatori di questo progetto, e chiediamo meglio di chiarirci di cosa si tratta. A dire la verità non è facilissimo definire in breve questo progetto. Io lo avevo pensato proprio come la costruzione di una redazione di graphic journalism, cioè di fumetto verità. E quindi, visto che siamo qua nella zona di Via Zanardi, periferia nord-ovest di Bologna, e che ci interessano le situazioni sociali meno sotto i riflettori, l'idea è proprio di andare ad indagare il quartiere qui adiacente, che si chiama Pescarola, che è un quartiere molto popolare, con un comparto A di edilizia pubblica, quindi, ed è un quartiere che certo non appare l'immagine pubblica di Bologna, che è fatta molto di più del centro gentrificato, del salotto buono, così. Quindi andiamo ad indagare una situazione diversa. Quindi parliamo di popolazione svantaggiata, si potrebbe dire brutalmente di poveri. Sì, credo che fosse la cosa più semplice, la definizione che si attaglia di più. Ma svantaggiata, ma poi non necessariamente disagiata, perché poi in questi quartieri periferici si vive anche con tranquillità, insomma c'è meno confusione, c'è più comunità, ci si conosce di più, cioè, quindi una serie di dinamiche che possono essere interessanti. E tra l'altro il quartiere è investito o sarà investito a breve da dinamiche urbanistiche molto preoccupanti, perché ad esempio, oltre che è vicino all'aeroporto, per cui ogni 10 minuti bisogna stare zitti perché passa un aereo, inoltre adiacente al passaggio dell'autostrada tangenziale, che sappiamo bene c'è il progetto di allargarlo, e in particolare Pescarola è oggetto di un nuovo svincolo nel progetto, quindi sarà sbancato e subirà notevoli disagi anche dal punto di vista proprio sia dei lavori sia dopo dell'aumento di traffico una volta che fosse realizzato quest'opera. E quindi ci sono una serie di contraddizioni che possono essere interessanti, ma l'ho definito graphic journalism, quindi si tratta fondamentalmente di un'inchiesta, per cui adesso stiamo lavorando soprattutto sulla preparazione di questa inchiesta, che necessita di relazionarsi con dei soggetti, delle persone che saranno dei tramiti, dei mediatori con la realtà sociale della zona, che ci metteranno in contatto con le persone che vivono sia nel comparto Acer sia nelle abitazioni private. Cercheremo di individuare i testimoni privilegiati di tutte queste realtà, comprese anche, non so, società sportive, educatori, di aggregazione di vario tipo, e cercheremo di stabilire con loro una relazione, sentire un po' le loro storie, soprattutto per capire appunto più a fondo la realtà del territorio. Dunque, queste persone che non sono più oggetto di una graphic novel, ma in qualche modo diventano soggetto, perché molto spesso, so che sei molto attenta a questa cosa, la descrizione che viene fatta verso le classi sofferenti è molto pietistica, tu dici dickensiana, e invece loro si raccontano diversamente. Sì, per la mia esperienza, che si è svolta soprattutto nei decenni passati con il mondo dell'immigrazione, l'autonarrazione dei migranti è assolutamente agli antipodi rispetto alla narrazione che viene fatta nei media italiani. Nei media italiani, quando va bene, la rappresentazione è appunto pietistica, quindi li vittimizzano, sono poveri. Spesso anche nei fumetti, visto parlando di quello, con le migliori intenzioni. Sì, infatti con intenzione di denunciare situazioni di ingiustizia che sicuramente esistono, sicuramente ci sono, però questo tipo di narrazione ha poi l'effetto comunque di riconfermare una gerarchia. Da un lato ci siamo noi, che siamo i soggetti che osservano, e dall'altro ci sono gli oggetti osservati, che sono appunto da redimere in qualche modo, da aiutare, sempre da aiutare. E se invece si parla con loro, la loro autonarrazione è completamente diversa. I migranti, in special modo, di solito raccontano se stessi in chiave eroica, cioè come persone che hanno affrontato, che stanno affrontando difficoltà, problemi anche molto grandi, ma che hanno una carica di determinazione, di capacità, e che sono anche tra l'altro certi di risolvere, cioè hanno una carica di speranza che è disarmante. Comunque veramente sono i classici eroi delle fiabe. Questa graphic novel, quindi, con la prospettiva di queste persone, non sì, di come vengono raccontate. Infatti stiamo mettendo molta cura in questa fase preparatoria, proprio perché dobbiamo costruire un terreno di relazione soprattutto, che ci permetta di avere un rapporto alla pari, paritetico, orizzontale con queste persone, in modo da far venire fuori la loro vera rappresentazione. E non disperiamo tra l'altro di coinvolgere anche proprio fattivamente delle persone del quartiere, in particolar modo pensiamo ai giovani, ma non necessariamente, vanno benissimo, accogliamo tutte le età, per lavorare con noi sia nella fase di sceneggiatura, di scrittura, sceneggiatura, quindi sia nella fase di disegno, chi se la sente. Per non cadere magari come marziani su persone mai viste, abbiamo un'importante interlocuzione. Ci siamo affidati in prima battuta a questa associazione di ricerca sociale e culturale e medica, che è il CSI, Centro di Salute Internazionale, che è nato da una spin-off dell'università, poi si è autonomizzato, oggi è un ente di ricerca autonomo, che dal 2016, mi sembra, porta avanti una ricercazione proprio sul quartiere Pescarola, quindi conosce proprio personalmente numerosi abitanti, in particolare del comparto ACER, che è quello più problematico, con i quali sta portando avanti un discorso sulla salute, sia di ricerca sia di autoaiuto, diciamo, di coscientizzazione delle proprie condizioni, dei propri diritti e quindi di autoaiuto. Quindi, se ho ben capito, da ottobre, poi precisiamo date, iscrizioni eccetera, si creerà questo gruppo, questo workshop fatto da una parte di persone che lavorano sul fumetto e dall'altra con persone del quartiere, per dar vita, creare l'intelaiatura generale di questo fumetto, che poi dopo Natale magari avrà proprio una sua sintesi nelle nuvolette. Sì, ci sarà una prima fase appunto da partire dal 26 ottobre, abbiamo pensato, una prima fase appunto di ricerca, di inchiesta, che è la fase, diciamo, giornalistica del graphic journalism, che servirà per raccogliere del materiale narrativo grezzo, diciamo così, su cui poi lavoreremo per costruire una sceneggiatura o più sceneggiature, vedremo se intrecciate giusto apposta, e questo è una cosa che si deciderà sul momento, capendo il materiale che avremo tra le mani, e pensiamo di farlo con il metodo del brainstorming, cioè farlo collettivamente, trovarci a discutere insieme e a analizzare ciascun personaggio, ciascuna storia, ciascuna situazione affrontata e conosciuta, e capire quali lati far emergere e come inserirla. Quindi sarà un lavoro anche proprio per i giovani in particolare che parteciperanno, anche di consapevolezza del potere dei media, cioè come da materiale grezzo si arriva ad un framing di un certo tipo, facendo uscire in un certo senso il significato che si vuole, cioè si può partire da una storia e arrivare a qualsiasi punto. Quindi questo sarà anche un lavoro di conoscenza di questo tipo di realtà, di lavoro sulla narrazione. E poi, una volta costruita in questo modo insieme una sceneggiatura, chi vorrà, in maniera su base volontaria, farà la parte del disegno, che invece è una parte che va fatta ovviamente molto più in autonomia. Ecco, in questo lavoro, a tuo parere, quanto c'è di fantasia, di fiction, quanto c'è di verità alla fine del lavoro? Questo lo sapremo soltanto vivendo, bisogna vedere che cosa verrà fuori. Per le mie esperienze precedenti, ho scritto e disegnato un paio di graphic novel che partivano da storie reali, però non erano dei reportage, erano, potremmo definirli docu-fiction in qualche modo. Comunque c'è anche una parte di fiction, perché comunque la costruzione è sempre qualcosa che ipotizza che esista un autore che narra, un autore che narra, e questo c'è e non va nascosto. E poi, che non vogliamo fare un documentario tout court, anche perché il tempo che richiede la costruzione di un fumetto, cioè te ne inventi tantissime, dico, cioè fai tante di quelle analisi, pensieri così e supposizioni, che sicuramente diventa un lavoro che è sempre molto, comunque molto personale, non è più un documentario. Poi anche i documentari hanno una regia, logicamente, non voglio sminuire assolutamente, però anche nel fumetto c'è la parte della regia assolutamente importante. E poi io immagino che inevitabilmente ci saranno delle importanti lacune, perché sul passato delle persone ci mancano le informazioni, diciamo, iconografiche, quindi molte cose dovremo sicuramente ricostruirle a fantasia. In ultimo, ripetiamo un po' i dati, perché magari qualcuno che ci ascolta vuole partecipare a questo workshop, ricordo, gratuito. Sì, allora il progetto si chiama Nuvole dalle Periferie, che vita in Pescarola. L'inizio sarà il 26 ottobre, e con incontri settimanali tendenzialmente il giovedì dalle 17 alle 20, in una sala situata nel quartiere Pescarola, in via Zanardi 210, si chiama Ex Falegnameria. Per informazioni e iscrizioni potete chiamare il numero 333-626-9454 oppure scrivere alla mail cinzia.monari@gmail.com.